podcast numero 10 in diretta dal CSA di Pavia, Barattolo. E niente, siamo qua a registrare il podcast. O basso, perché ho la voce bassa. E per la prima volta facciamo il podcast dal vivo, in diretta, insieme. Oggi c'era una specie di seminario, di workshop dedicato a Linux Audio e Musica Libera. La fluente è media e abbiamo quindi suonato un po', fatto vedere delle cose, visto gente e abbiamo suonato. E allora c'è presentazione, a completo c'è, ma anche Millo prima di tutto, grave assenza, però c'è i bambini, toccava lui questa puntata. Poi c'è Marco, che tutti conoscete, c'è in diretta Audiofilo, per la prima volta non è relegato nel suo angolino, ma è qua con noi. Poi c'è Carletto, che anche lui è stato protagonista di una puntata. Poi c'è Vubbi, protagonista di due o tre puntate. E poi c'è Francesca, che è un'altra frequentatrice del canale, che sono venuti direttamente da Quarrata a qua. Poi c'è Cacio, sempre del canale, e altra gente. No, cioè il discorso per cui di fatto sulla musica libera uno, come dire, ci presta poca attenzione, comunque c'è una tendenza a non mettersi a dire, lo vedo come un problema e quindi mi pongo la domanda come risolverlo. La risposta potrebbe essere attraverso la musica libera. Uno secondo me non fa questo passaggio qua perché di fatto nei fatti, cioè, uno può scaricare qualsiasi musica, può e quindi preferisce più che altro non ponendosi il problema, come di fatto non si pone il problema su tutte le altre cose, procedere coi fatti. Stava parlando Lorenzo. Lorenzo, che secondo me quello che diceva è la stessa cosa, un'analogia con il software libero e con l'open source. Così come è successo con l'open source, che prima diceva la gente, perché devo usare l'open source quando posso scaricarmi da iMule o dai torrent software proprietario craccato. E secondo me è la stessa cosa con la musica, perché devo ascoltare musica libera quando posso ascoltarmi l'ultimo CD o l'ultima compilation uscita e scaricarmela sempre. E l'open source, come al solito, è stato diciamo precursore sia per quanto riguarda le licenze e sia per l'utilizzazione. E così come l'open source si è imposto anche a livello professionale negli ambienti lavorativi, io credo che la stessa cosa succederà con la musica rilasciata con licenze libere, per il fatto che le case discografiche non possono continuare a basare il loro business su qualcosa che loro sostengono gli venga rubato. In effetti il loro fatturato è sempre minore, quindi o fanno un ragionamento sulle nuove forme di distribuzione oppure anche loro dovranno rendersi conto che qualcosa è cambiato. Guarda, se posso dire una cosa a riguardo, sai che io di mestiere faccio il fonico e è comune entrare in uno studio di registrazione e trovare software craccato, plugin craccate, addirittura i sistemi operativi craccati e scaricati. Ok, E questa è una cosa nota, stranota, chiunque sia mai entrato in questi posti lo sa. Il fatto è questo, è che bisognerebbe riflettere sulla questa condizione, e cioè che il mercato degli studi di registrazione così si basa anche su software craccato, e quindi genera un'economia drogata, perché non si basa sul sistema corretto. Questo fa luce anche sul fallimento dei controlli riguardo a queste cose. Forse, ma io sono convinto che una cosa per funzionare debba essere in primo luogo sostenibile, cioè altrimenti c'è, da qualche parte c'è qualcosa che non funziona, e una, diciamo, è magari una toppa che viene messa da qualcun altro che magari non dovrebbe esserci. Quindi io penso fortemente che indubbiamente il modello economico futuro sia quello delle licenze libere, del software libero, anche perché è noto che ci sono diverse, come dire, ci sono diversi articoli di diversi giornalisti, diversi pensatori che propongono modelli economici basati sul software libero. Quindi non bisogna fare l'analogia sorgente chiusa uguale denaro, sorgente aperta invece uguale, che ne so, qualcosa di aleatorio. Ci sono cose molto molto molto molto pragmatiche a riguardo. Grazie Audiofilo. Tant'è che comunque, ad esempio, gruppi come Nine Inch Nails hanno abbracciato le Creative Commons, e quindi insomma hanno deciso di sfidare se stessi in questa nuova avventura, cosa che gli ha portato comunque un bel feedback, ecco, perché comunque, diciamo, il diritto d'autore al tempo della rete, scusatemi questa digressione, insomma, il diritto d'autore al tempo della rete, e scusami Caccio perché sei tu che hai suggerito al tempo della rete, deve adattarsi assolutamente al peer-to-peer, allo scaricamento selvaggio, perché comunque noi non vogliamo scaricamento selvaggio, ma vogliamo scaricamento regolato con permessi. Scaricamento selvaggio è semplicemente regolarsi, cioè anzi incastrarsi in una logica di mercato già presente. Quindi se io ascolto l'ultimo Laura Pausini eccetera eccetera, alla fine contribuisco, ma innanzitutto, a peggiorare la mia cultura musicale con tutto l'aspetto che ho per Laura Pausini eccetera eccetera. Però c'è da dire che insomma si rientra in un meccanismo di un po' così sterile, perché sì, non si riesce a scoprire più musica fatta dalle persone, ecco, e scusate la demagogia. Però in effetti, andando ad ascoltare siti come Giamendo, ma anche su MySpace per carità, insomma, si possono trovare veramente tante perle. Bisogna cercarle, questo sì, non è una cosa di avere la pappa pronta, ecco, però comunque se uno ha un minimo di, non sabe in testa, ma un minimo di grano in testa, ecco, diciamo così, riesce a così costruirsi un suo percorso anche di gusti musicali e culturali, ovviamente. Allora, io volevo ritornare su un argomento di cui avevamo già parlato. Io, forse l'ho detto, sono moderatore di un forum che tratta prevalentemente musica dance, è un forum di musica digitale. Comunque il 90% delle produzioni che vengono postate è di ambito dance. Le domande sono sempre le solite. Il primo pensiero è ovviamente rivolto a come proteggo le mie cose, perché tutti sognano di vendere, di fare chissà che cosa, e poi le solite, che cos'è la Creative Commons, ma soprattutto perché dovrei rilasciare sotto Creative Commons. C'è da fare un'osservazione: che il ragazzo che fa questa domanda scarica qualunque cosa, allo stesso tempo però sogna di avere quel disco nel cassetto che vende il milione di copie, quindi si rende anche conto del problema, che se fai un disco da milione di copie allo stesso tempo avrai 10 milioni di download. Io ritorno su questo argomento dicendo semplicemente una cosa, che bisogna far capire che cos'è la Creative Commons. perché c'è sempre solo ignoranza, e il primo pensiero è quello di voler proteggere, andare in SIAE perché ti tutela, perché se no ti rubano la canzone e te l'hai preso in quel posto. L'altra questione è che, più che ignoranza, secondo me c'è ambiguità di fondo, perché noi si pone, di solito quando parliamo di queste cose, diamo per scontato che la gente sappia che non parliamo di diritto d'autore. Cioè l'alternativa non è qua tra diritto d'autore sì e diritto d'autore no, ma tra diverse modalità di gestione del diritto d'autore. Una è il copyright, tutto incluso, una è il copyleft, qualcosa incluso e qualcosa no. E questo forse che non riusciamo a far passare. Per cui l'autore dice, fi, qui si mette in discussione la mia paternità dell'opera? No, qua si mette in discussione la possibilità, in un contesto di produzione e distribuzione delle opere diverso, mutato, si mette in discussione quale sia la modalità più utile, quella che ti permette di più la fortuna delle tue opere, se la valgono. Se non la valgono, zi tuoi e via. E forse è questo che non riusciamo a far passare, il solito discorso che il problema non è la SIAE, il problema è un altro modello di produzione, distribuzione e condivisione delle opere. Per questo forse prima, dicendo una boiata senza senso, però forse un senso ce l'ha, c'è voglia di con, cioè di far girare le proprie cose, ma non c'è voglia di dividerle, nel senso di, nel momento in cui c'è il rischio di rimetterci qualcosa, la gente si tira indietro, come se tra l'altro con il modello tradizionale del copyright della SIAE si facessero i soldi. Quello che volevo dire io è che secondo me noi viviamo assolutamente in un mondo particolare, parlo di noi 4, 5, 6, 10 che siamo qua, e più o meno anche gli ascoltatori, immagino, perché per esempio ho parlato un mese fa con un musicista, è scritto SIAE, che da 20 anni fa il musicista, cerca di campare con la musica e basta, e abbiamo fatto una bellissima conversazione. A un certo punto ovviamente io ho saltato fuori con l'argomento Creative Commons e non l'aveva mai sentito, non aveva mai sentito neanche il nome. Questa è la realtà che abbiamo di fronte, quindi secondo me l'unica cosa che possiamo fare è divulgare, spiegare più o meno come stanno le cose, però di certo noi ce la cantiamo, ce la suoniamo, conosciamo più o meno gli aspetti, cerchiamo di diffonderli, però secondo me al di là di una nicchia, la Creative Commons è assolutamente sconosciuta in ogni suo particolare, quando non è addirittura conosciuta, talmente poco conosciuta che viene equivocata con mi rubano la musica, fondamentalmente. Ma forse è un problema di canale di comunicazione, ecco, in generale. Forse è questo il problema reale. Salve a tutti, volevo dire una piccola cosa ricollegandomi al discorso di Bex. E un punto negativo della Creative Commons penso sia, oltre che alla mala diffusione dell'argomento, anche il fatto che c'è una sorta di diffidenza nei confronti di un qualcosa che sia libero, che sia condivisibile al massimo e che sia quindi libero, insomma, al 100%, non solo nei confronti della Creative Commons, ma mi ricollego anche per esempio al tema del software libero, della filosofia open source. E oltre a tanti musicisti che quindi gli dici Creative Commons, quindi una cosa nuova, una cosa molto diversa dalla SIAE, dicono ma non c'è protezione, non c'è sicurezza, quindi no, è una cosa che comunque qualitativamente non è buona, e quindi no, te la scansano subito. E poi per esempio per quanto riguarda il software libero, io che diciamo mi ci sono avvicinata da poco, posso dire che comunque è una una grande scoperta, una grande passione. Penso che comunque le persone che utilizzano un certo tipo di software, oltre al fatto della semplicità, della bellezza anche grafica, comunque sia una cosa molto più avanti, molto più libera, accessibile proprio a tutti. Io volevo dire una cosa velocissima, che secondo me è l'unico posto dove si raccolgono nello stesso istante tanti cervelli che dovrebbero essere pensanti e quindi capaci di recepire molto sull'argomento Creative Commons, è la scuola, dalle medie alle superiori e anche all'università. Quindi secondo me quello è il posto dove bisogna puntare, dove, cioè, ci si può puntare anche non facendo affidamento alle istituzioni. Benissimo, perché io sono andato a portare nelle scuole pavesi il discorso software libero dedicato alla didattica e sempre ci infilo dentro alla fine un discorso sul passaggio dagli strumenti liberi alla libertà dei contenuti, quindi sulle Creative Commons. Finché rimane nelle scuole è vero, funziona, nel senso che anche sono gli stessi docenti che spesso chiedono come fare a fare gli esercizi Creative Commons da dare in giro e risparmiare così sui sussidiari, sui libri, le vacanze e così via. In università, purtroppo, ne discutevamo prima con Marco anche su Open Access, c'è questa cosa che nel momento in cui ti muovi in scarsità di risorse, tagli continui, sei sotto la mannaia, rimangono due o tre finanziamenti, tu devi difenderli con i denti, e il contesto, soprattutto in Italia, fa sì che la condivisione sia vista come la bestia nera, la peste assoluta, perché tu hai paura che ti ciulino le tue. Però non è un problema di Creative Commons, è un problema di contesto. Lo stesso il discorso che faceva prima Marco, che in altri paesi europei è una realtà più affermata, è più facile da diffondere, e anche perché forse negli altri paesi europei è più facile suonare, è più facile fare socialità. Cioè, noi siamo in Italia, è sempre più difficile fare live nelle città, piccole o grandi che siano, gli spazi liberi, gli spazi sociali. Oggi siamo in un centro sociale che è sotto attacco, e così gli spazi sociali di varia natura in tutta Italia sono sotto attacco, e se manca il luogo fisico e reale dove far nascere le passioni, diventa sempre più difficile anche parlarne. Volevo fare il contestatore. No, in realtà il grosso problema, riferendomi al discorso che hai fatto prima, il problema è che i bambini già scaricano. Per i bambini, e questa è la cosa grave, è una cosa assolutamente normale avere un sistema operativo craccato, un gioco craccato e qualunque altra cosa. E quindi il concetto di scaricare gli si forma dentro, quindi diventa sempre più difficile abituare a un discorso di software libero e a licenze libere, a tutto quello che ci gira attorno, se un bambino parte già con questo presupposto. Che secondo me, al di là del senso, cioè, come dire, la scelta di coscienza arriva dopo una certa consapevolezza, appunto, delle libertà che offre uno strumento piuttosto che l'altro. Però in generale, secondo me, i giovani sceglieranno un paradigma rispetto a un altro, non, cioè, semplicemente per... Io, ad esempio, ho iniziato a usare Linux quando mi sono reso conto che su determinati problemi funzionava meglio. È lo stesso per dire, secondo me, con la musica. Con la musica, nel momento in cui ascolterò musica libera, nel momento in cui troverò musica che mi piace, poi, cioè, che sia su Mac, che sia su Windows, che sia su Linux, tipo, la scelta arriva solo in un secondo momento, però nella grande platea passa anche Linux adesso molto di più, perché effettivamente adesso è molto più funzionale su certe cose rispetto a Windows. Finché, quando si riuscirà con la qualità, a rendersi sostituibili e un'alternativa efficace, secondo me la gente automaticamente cambierà. Dopo questo noto di speranza, chiudiamo il podcast numero 10. Ringrazio tutti e ci sentiamo a gennaio. Ciao a tutti.